Conversazione. Conversation. Smoking or no smoking? Smoking, please. Your seat number's A23. Here's your boarding pass. Thank you. Smoking or no smoking? Smoking, please. Your seat number's A23. Here's your boarding pass. Thank you. Smoking or no smoking? No smoking, please. Your seat number is E12. Here's your boarding pass. Thanks. Smoking or no smoking? No smoking, please. Your seat number is E12. Here's your boarding pass. Thanks. Welcome aboard. My seat number is C14. C40? No, C14. Okay, here's your seat. Thank you. Welcome aboard. My seat number is C14. C40? No, C14. Okay, here's your seat. Thank you. Excuse me? Yes? Tea or coffee? Tea, please. Excuse me? Yes? Tea or coffee? Tea, please. A newspaper or a magazine? A newspaper, please. Here's the Washington Post. Thank you. A newspaper or a magazine? A newspaper, please. Here's the Washington Post. Thank you. A drink? Yes, I'd like an orange juice, please. No, thank you. A drink? Yes, I'd like an orange juice, please. No, thank you. A newspaper or magazine? Yes, I'd like the Times, please. Yes, I'd like Newsweek magazine, please. A newspaper or magazine? Yes, I'd like the Times, please. Yes, I'd like Newsweek magazine, please. Terminiamo l'unità 2 con due prove d'ascolto. Per poterle eseguire, aprite il fascicolo e leggete l'esercizio a pagina 38. Ascoltate lo spelling dei nomi di 6 città. Scrivete le lettere man mano che le sentite. Ogni trattino corrisponde a una lettera dell'alfabeto. Un esempio. D. U. B, L, I, N, Dublin, F, L, O, R, E, N, C, E. E, D-I-N-B-U-R-G-H. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. V-E-N-I-C-E. L-O-N-D-O-N. S-Y-D-N-E. Why? Sentirete ora lo spelling dei nomi di due personaggi molto famosi. Il primo è il nome di uno dei più grandi scrittori inglesi. Il secondo è quello di un grande presidente degli Stati Uniti. W I L L I A M S H A K E S P E A R E A B R A H A M L I N C O L N. Si conclude qui l'unità 2. Unità 3. Unit 3. Ascoltare. Listening. Si scrive Laura, ma si dice... Anzitutto, ascoltate la corretta pronuncia dei termini essenziali per definire la propria identità. Name. Surname. First name. Forename. Family name. Last name. Christian name. Date of birth. Address. Sex. Male. Female. Adesso passiamo ai nomi di persona. Ne sentirete alcuni che si scrivono come in italiano, ma si pronunciano diversamente. George. Stephen. Leonard. Cecilia. Sophia. Laura. Ascolterete ora una serie di nomi e cognomi preceduti dal signore, signora e signorina. Mr. John Smith. Miss Pamela King. Mr. Keith Dean. Mrs. Heather Cromwell. Mr. Felix Higgins. Miss Harriet Price. Negli ultimi tre, lo avrete notato, la lettera H viene fortemente aspirata. Ascoltate di nuovo questo suono. My name's Horace Holliday. I'm Hilary Fox. Anche i nomi degli attori del cinema, pronunciati nel modo giusto, aiutano a prendere confidenza con la fonetica inglese. Per esempio, ecco tre diversi modi di pronunciare la G. Kim Basinger, Richard Gere, Jessica Lange. Oppure due diversi modi di pronunciare lo stesso identico nome. Betty Davis. Bette Midler. Ecco infine altri due attori celebri. In questo caso la sorpresa arriva dalla pronuncia dei cognomi. Tom Cruise. Sylvester Stallone. Ascoltare. Listening. Com'è diverso l'italiano dal portoghese? Paesi e nazionalità. Ascoltate. Italy. Italian. Germany. German. The United States of America. American. Belgium. Belgian. India. Indian. Canada. Canadian. Austria. Austrian. Fin qui gli aggettivi di nazionalità terminano tutti allo stesso modo. Ma sentiamo un altro gruppo. Britain, British. Ireland, Irish. Spain, Spanish. England, English. Scotland, Scottish. Wales, Welsh. Ed ecco un terzo gruppo con un suono finale ancora diverso e stranamente prolungato. Portugal, Portuguese. China, Chinese. Japan, Japanese. Ascoltate ora una serie di frasi in cui si applicano alcune delle nozioni già note. I'm from France. I'm French. I'm Swiss. I'm from Switzerland. I'm from Holland. I'm Dutch. I'm from the Netherlands. I'm Dutch. I'm Greek. I'm from Greece. In queste altre frasi sentirete anche alcuni nomi geografici americani pronunciati da un americano. Hi, I'm from the USA, Missouri. I'm from Oregon. Hi, I'm from the United States of America, Ohio. I'm American. I'm from Massachusetts. Concludiamo con i saluti. Vi sono i saluti, per così dire, formali. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. E i saluti più confidenziali, come hello, hi, bye-bye. Bye. Ascoltare. Listening. È il momento di dire l'età. Come si dice anno in inglese? Year. E al plurale? Years. Ascoltate ora l'espressione usata per dire l'età. I'm 9 years old. Laura is 28 years old. He's 84. I am 35. 35? She's 47. Ecco la pronuncia degli aggettivi che avete appena imparato. Hot, cold. Old, young. Happy, sad. Tired, angry. Hungry, thirsty. Avete rilevato la differenza tra arrabbiato e affamato? We're angry and we're hungry. Anche l'aggettivo assetato ha un suono insidioso. Potreste confonderlo con il numero 30. I'm 30. I'm thirsty. Parlare. Speaking. Dialoghi dal Nevada alla Svizzera. Ascoltate e ripetete. Hello, my name's Martin. What's your name? Hi, my name's Judy. Good morning, I'm Mary. What's your name? Hello, my name's Philip. Pleased to meet you. Hello, I'm from Switzerland. Where are you from? Good evening, I'm from Italy. Good afternoon. I'm from Massachusetts. Where are you from? Hi, I'm from Nevada. Come avete sentito, l'inglese, soprattutto nelle domande, dà un'intonazione alla frase diversa da quella italiana. Cercate di riprodurla anche nelle frasi seguenti. I'm John Smith. I'm English. Are you French? No, I'm not. I'm Italian. My name's Mario Rossi. Is Claudia Spanish? No, she isn't. She's English. Ecco altri due brevi dialoghi. Anche qui ponete attenzione all'intonazione della voce. I'm 18 years old. How old are you? Hi, I'm 16. Good morning, I'm 10. How old are you? I'm 79 years old. Parlare. Speaking. Ma tu, che mestiere fai? Ascoltate e ripetete. I'm a secretary. He's a businessman. She's a housewife. He's a tourist. He's an actor. We are managers. They're pensioners. Ripetete prestando particolare attenzione agli aggettivi possessivi. What's your job? I'm a doctor. What's his job? He's a policeman. What's her job? She's a policewoman. Nelle frasi che seguono sentirete l'uso del plurale sia nella domanda sia nella risposta. What are your jobs? I'm a driver, he's a mechanic, and she's a shopkeeper. What are your jobs? We are teachers. Tom and Matthew are our students. What are their jobs? She's an actress, and he's a reporter. Parlare. Speaking. I segreti del progressivo. Ascoltate e ripetete i seguenti verbi anche nella forma progressiva. Attenzione al suono finale ing. To go. I'm going. To speak. You're speaking. To read. He's reading. To write. We're writing. To drive. They're driving. Avete sentito inoltre che la E dei verbi scrivere e guidare non viene mai detta? Ascoltate poi come si pronunciano i verbi camminare e conversare e ripeteteli. Sentirete che la lettera L scompare. To walk. She's walking. To talk. You're talking. Ecco alcune frasi che vi permetteranno di esercitarvi con i verbi appena imparati. I'm driving. I'm going to Cambridge. They're going from London to New York. She's reading a newspaper. We're speaking English. He's writing. His name is Frank Prescott. He's a reporter. Conversazione. Conversation. Good evening. Good evening. My name's Dermot O'Toole. Pleased to meet you. And I'm Ingrid Fisher. Pleased to meet you. Where are you from? I'm American. I'm from New York. Are you Austrian? No, I'm not. I'm German, from Berlin. I'm a teacher. What's your job? I'm an actor. An actor? Oh. A drink? A drink? Oh, yes, please. Good evening. Good evening. My name's Dermot O'Toole. Pleased to meet you. And I'm Ingrid Fisher. Pleased to meet you. Where are you from? I'm American. I'm from New York. Are you Austrian? No, I'm not. I'm German, from Berlin. I'm a teacher. What's your job? I'm an actor. An actor? A drink? A drink? Oh, yes, please. Hello, my name's Vincent. I'm from the Netherlands. I'm Dutch. I'm 39. I'm a driver, and I'm happy. And what's your name? My name is... What's my name? My name's Paul. And your surname? I am a doctor. Paul Doctor? No, I am a doctor. And I'm sad. Okay, okay. I'm thirsty. I'm going to the bar. Bye-bye. Hello. My name's Vincent. I'm from the Netherlands. I'm Dutch. I'm 39, I'm a driver, and I'm happy. And what's your name? My name is... What's my name? My name's Paul. And your surname? I am a doctor. Paul Doctor? No, I am a doctor. And I'm sad. Okay, okay. I'm thirsty. I'm going to the bar. Bye-bye. Hi, my name's Julia. Where are you from? Hello. I'm from Scotland, Edinburgh. Where are you from? I'm from Los Angeles. What's your job? I'm a businessman. And you? I'm a secretary. Are you thirsty? Yes, I am. I'd like a cocktail, please. Okay. Two cocktails, please. Thank you, Mr... What's your name? I'm Robert Cromwell, Julia. And I am Mrs. Cromwell. Hi, My name's Julia. Where are you from? Hello. I'm from Scotland, Edinburgh. Where are you from? I'm from Los Angeles. What's your job? I'm a businessman. And you? I'm a secretary. Are you thirsty? Yes, I am. I'd like a cocktail, please. Okay. Two cocktails, please. Thank you, Mr. What's your name? I'm Robert Cromwell, Julia. And I am Mrs. Cromwell. Listening test. Concludiamo la registrazione della cassetta dedicata alle prime tre unità con l'esercizio sonoro del test. Per superare questa prova, aprite il fascicolo a pagina 58. La prima esercitazione è un breve dettato. Il testo verrà letto una volta e poi ripetuto, scandendolo parola per parola. Per controllare ciò che avete scritto, vi consigliamo di ascoltare nuovamente la lettura. The tourists are from Japan. They're going from the airport to Paris. They're reading their brochures. The Japanese tourists are hungry and tired, and they're going to the hotel. The tourists are from Japan. They're going from the airport to Paris. They're reading their brochures. The Japanese tourists are hungry and tired. And they're going to the hotel. In questo secondo esercizio ascolterete alcune persone che dicono la loro età. Scrivete negli spazi appositi il numero di anni che dichiarano. I'm 40. I'm 38. I'm 15. I'm 67. I'm 29. I'm 12. Si conclude qui con l'unità 3, la prima cassetta del corso De Agostini, L'inglese per te.